Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare sarà la nostra 330esima trasmissione della nostra calamità in onda dal dicembre 1997, sempre dai liberi microfoni di Radio Onda Rossa. Oggi qui in studio a farvi compagnia siamo Stefania, che vi sta parlando, e Caterina. Per oggi abbiamo pensato di parlarvi di un'iniziativa che ormai da diversi anni viene organizzata in Puglia e che offre solo a donne una meravigliosa vacanza. Per spiegarci meglio il tutto telefoneremo in diretta alla nostra cara amica Pina della Masseria Sant'Anna, che ci illustrerà quando e come cosa è la mitica vacanza in masseria per sole donne. Direi che a questo punto si può mandare un brano musicale durante il quale ci collegheremo telefonicamente con Pina. Ascoltiamo dalla voce di Giusy Ferrieri Passione Positiva. Dico di risolvere i problemi quando tutto ciò che faccio è aspettare. Sbagli quando pensi che il silenzio faccia bene, tu mi aspetti ma il silenzio mi distrae. E forse aver paura è ridicolo, non lo so. E fanno meglio quelli che poi fingono, non lo so. Forse il dubbio mi conviene, oh, oh. Forse un alibi fa bene, oh, oh. Si va quando la passione è positiva. Forse partirei, non lo so. Ma forse penso a lei e resto, non lo so. Giocare con la tua voglia di me non è nobile. Gioco con la tua voglia di me ma resti immobile, oh, oh. Lasciami da parte un po' di tempo e poi da sola capirò, non lo so. Difficile trovare teste come le tue. È facile sbagliare nome quando ne hai due. Sento solamente freddo, perdo quote, mi lamento, prendo quote, prendo tempo e ora non lo so. Forse aver paura è ridicolo, non lo so. E fanno meglio quelli che poi fingono, non lo so. Fa male quando è sera, oh, oh. Fa male che non spera, oh, oh. Si va quando la passione è positiva. Forse partirei, lo so. Forse penso a lei e resto, non lo so. Con la tua voglia di me non è nobile. Gioco con la tua voglia di me ma resta immobile, oh, oh. Lasciami da parte un po' di tempo e poi da sola capirò. Sempre di notte tu piangi al buio parlando alle ombre, quando l'amore dopo tanti anni muore. La verità so come, la verità so come, la verità. Forse il dubbio mi conviene, oh, oh. Forse un alibi fa bene, fa male quando è sera, oh, oh. Fa male che non spera. Poco si fa quando la passione è positiva. E forse partirei, posso. E forse penso a lei e resto, non lo so. Con la tua voglia di me non è nobile. Gioco con la tua voglia di me ma resti immobile, oh, oh. Lasciami da parte un po' di tempo e poi da sola capirò, non lo so. È poco schifa quando la passione è positiva. Forse partirei, posso. E forse penso a lei e resto, non lo so. Giocare con la tua voglia di me non è nobile. Gioco con la tua voglia di me ma resta immobile, oh, oh. Lasciami da parte un po' di tempo. Allora, vediamo se abbiamo fatto tutti i collegamenti. Ci sei, Pina? Ci senti? Non c'è Pina. Ok, mandiamo un'altra canzone. Non so che cosa sia successo. Aspetta un attimo. No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests. No one's laughing at God. Allora, vediamo se ci sei questa volta, Pina. Siamo riuscite, Sì. Ok, meno male, è caduta la linea, come si dice nelle migliori trasmissioni, è caduta la linea. Allora, intanto è un piacere risentirti. E io direi subito di partire con le domande, perché ne abbiamo una vagonata e non so se il tempo a nostra disposizione è sufficiente, e soprattutto non vogliamo occupare a te tutta la serata. Quindi direi di partire subito, se sei d'accordo. Allora, come le nostre ascoltatrici sanno, abbiamo già parlato con te della masseria Sant'Anna. Noi però abbiamo deciso di riproporre questa trasmissione con te, perché crediamo molto nel valore della storia, soprattutto se questa è scritta attraverso il vissuto e le lotte di donne lesbiche. Non può quindi che farci piacere mettere in evidenza quanto tutti questi aspetti abbiano dato origine a progetti belli come quelli della masseria. Per questo ci piacerebbe che tu ci ricordassi da dove e come è nato questo progetto. Va bene, allora, questo è un progetto che oramai ha più di 20 anni. È nato nel 94, poco prima della vostra trasmissione, qualche anno prima. e nasce all'interno come progettualità di un'associazione lesbica separatista che operava a Bari in quegli anni, l'associazione Desiderande. Era un progetto dell'associazione dove l'associazione a un certo punto ha voluto con forza avere un momento, uno spazio dove poter incontrare le donne provenienti, le lesbiche provenienti un po' da tutte le dall'Italia in particolar modo, ma non solo, per avere un momento di confronto, ma anche un momento ludico per poter stare insieme in una terra come quella della Puglia, che diciamo è insomma è così ospitale e bello, insomma. Quindi nasce un po' così, nasce nel 94 la vacanza lesbica in masseria, sempre masseria Sant'Anna, è stata organizzata da me e dalle altre compagne dell'associazione per moltissimi anni. Da questo progetto poi all'interno dell'associazione è nata l'idea di poter mantenere questo spazio in maniera permanente, per poter avere appunto un luogo dove poter mantenere questa progettazione, ma anche per poter fare altre cose. Poi nel corso degli anni le vite, le progettazioni si modificano e cambiano, certo. Per cui l'associazione Desiderande al momento è non è più attiva di fatto, però alcune di noi hanno mantenuto questa il desiderio, e quindi poi l'hanno realizzato, la voglia di continuare questo progetto, di mantenere uno spazio dedicato alle donne lesbiche. E per noi siamo molto contente di questo. Abbiamo preso di fatto in gestione la masseria Sant'Anna, che nei primi anni la prendevamo in fitto soltanto per il periodo della vacanza, l'abbiamo presa in maniera permanente, e all'interno della quale tra le diverse attività d'estate organizziamo ad agosto la, come la chiamate voi, la mitica vacanza per donne. Certo, certo. Questo è la storia Non so se hai qualche altra, avete qualche guarda, altra io una domanda da farmi a proposito. Guarda, io so che come dicevi tu, le disertante sono nate prima della nostra trasmissione, però sai, le cose belle sono contagiose e danno voglia ad altre. Pronto, pronto, mi senti? Riesci a sentirmi? Sì. Ecco, mi senti adesso? Sì, ti okay. Sento. L'avevo persa. Ci abbiamo, no, e ci abbiamo il mixer che oggi dai capricci, c'ho tutte i LED delle lucine che si accendono e si spengono ogni okay. tanto. Vive di vita autonoma questo mixer oggi. No, dicevo che le cose belle sono contagiose, quindi quando si vedono donne che messe insieme fanno delle belle cose, viene voglia di farne altrettanto, soprattutto dando spazio alla propria creatività. Però ricordare il passato, dicevo prima, è importante, però vorrei arrivare un attimo al presente, quindi vorrei andare proprio nel pieno della nostra intervista a te. Noi abbiamo visto su YouTube all'indirizzo Masseria Sant'Anna B&B Monopoli, c'è un video molto interessante che parla della masseria, della sua storia, perché anche le cose hanno una storia, e quindi farle continuare a vivere sono progetti molto belli, e siccome io l'ho ascoltato con molto piacere quel video, magari se ti va di raccontarla anche a noi e alle nostre ascoltatrici, magari potrebbe essere interessante. Sì, certo. Diciamo, nell'evoluzione del progetto che è nato appunto con l'associazione Desiderande, noi abbiamo pensato di voler sia avere questo spazio dedicato a noi, ma anche di utilizzarlo e metterlo a disposizione per tutte quelle attività che hanno a che fare col turismo sostenibile, con un modo di stare insieme, anche di vivere le vacanze, gli spazi in maniera più a diretto contatto sia con la natura che con le persone. Per cui diciamo, le nostre attività all'interno di quel posto hanno questa finalità, ovvero sia la finalità di far vivere a chi ci viene a trovare uno spazio bello come quello che è offerto dalla nostra Murgia dei Trulli, dalle campagne dell'area di Alberobello e Monopoli, ma anche con una attenzione particolare alla qualità dello stare insieme, e quindi all'accoglienza, alla scelta dei cibi e dei prodotti locali, preferibilmente biologici laddove noi troviamo questo tipo di disponibilità. L'idea è sempre quella di voler creare dei momenti di forte socializzazione tra le persone per poter favorire scambi positivi. Certo. Questa è l'ottica, sì. Certo. Senti, noi sappiamo che le vostre settimane sono molto frequentate. Ti va di raccontarci da dove vengono le donne che partecipano all'esperienza di vacanza in masseria? Sì, allora la maggior parte delle donne provengono da un po' da tutte le parti d'Italia e qualcuna anche dall'estero. Però diciamo prevalentemente sono donne che provengono dal centro, dal nord Italia e anche dal profondo sud, perché ci sono donne che sono venute anche dalla Sicilia. La vacanza è improntata è una vacanza ludica, diciamo, che all'interno della quale ci sono momenti culturali, momenti di riflessione, ma fondamentalmente noi l'abbiamo concepita sempre come una vacanza dove le donne vengono per riposarsi, per andare a mare e per trovare momenti di grande socializzazione e di forte divertimento. Certo. C'è tutta questo filone che noi abbiamo curato nel corso degli anni, che è quella dell'animazione, che non è un'animazione diciamo da villaggio turistico, ecco. Ma è un tipo di proposta che noi facciamo per metterci noi in gioco e per far sì che le donne si mettano in gioco con le altre per poter favorire la socializzazione e gli scambi. Per cui nel corso degli anni abbiamo anche ospitato e promosso laboratori anche di travestitismo di donne, però che dove il travestitismo era legato soprattutto al divertimento, però finalizzato a mettersi in gioco, a voler cambiare un po' gli schemi. Certo. E tutto questo è stato fortemente è stato molto divertente ed ha anche creato delle bellissime sinergie che si sono poi mantenute nel tempo come relazioni e come anche voglia di voler fare delle altre cose insieme che non fossero soltanto lì da noi in masseria. Per cui questo è stato molto interessante. Certo. La cosa per me molto bella, per noi molto bella, che le donne che sono state da noi ricordano quella vacanza come uno dei momenti più divertenti della loro vita, per cui per noi sono veramente è una carica molto forte, perché significa riuscire a star bene senza, alla fine, senza neanche, cioè non è che noi abbiamo messo in moto chissà quale evento o iniziativa grossa, è stato un mettere in moto le nostre capacità di stare insieme, le nostre sinergie, la nostra capacità creativa anche. Certo. Noi, per esempio, nei nostri momenti di animazione noi andiamo a stimolare proprio la creatività che è dentro ognuna di noi, per cui poi vengono fuori delle cose estremamente interessanti, ma soprattutto molto divertenti, sia per chi le guarda sia per chi le fa. Sì. Certo. Ascolta, a questo punto io direi di fare un brevissimo stacco musicale. Ascoltiamo Regina Spektor con Laughing With e poi ci risentiamo ancora, ok? Bene, fra poco. Sì, va bene. A God in a hospital, no one laughs at God in a war, no one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests, no one's laughing at God when it's gotten real late and their kid's not back from that party yet. No one laughs at God when their airplane starts to uncontrollably shake, no one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say, "We got some bad news, sir." No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny at a cocktail party while listening to a cookout theme joke, or when the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke. God could be funny when told he'll give you money if you just pray the right way, and when presented like a genie with his magic like Houdini, or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus. God could be so hilarious, huh? God in a hospital, no one laughs at God in a war, no one's laughing at God when they've lost all they got and they don't know what for. No one laughs at God on a day they realize that the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes. No one's laughing at God when they're saying their goodbyes. But God could be funny at a cocktail party while listening to a cookout theme joke, when the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke. God could be funny when told he'll give you money if you just pray the right way, and when presented like a genie who does magic like Houdini, or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus. God could be so hilarious when no one laughs at God in a hospital, no one laughs at Allora Pina, ci siamo allietate con questa bellissima canzone e io continuerei facendoti delle altre domande. Allora abbiamo avuto modo di appurarlo personalmente, ma anche dalla tua spiegazione molto esauriente abbiamo capito che all'interno della masseria ci sono delle dinamiche che si instaurano attraverso la frequentazione e che sono molto belle. Però oltre a questo voi date la possibilità di diciamo allargare ancora di più questa possibilità di relazione, perché almeno io ricordo così fate anche non so quante ne riusciate a organizzare, perché credo che sia massacrante il lavoro che portate avanti e io di questo vi ringrazio, però fate anche delle feste aperte, no? Nella quale confluiscono anche di solito delle donne che non risiedono necessariamente all'interno della masseria, e dal mio ricordo insomma questo evento riscuote un discreto successo ed un ottimo riscontro. Ce ne vuoi parlare e ci vuoi dire in che cosa consiste? Sì, diciamo che negli ultimi anni questo tipo di feste sono allora questo tipo di festa noi l'abbiamo è all'interno della settimana, nel senso che negli anni passati noi abbiamo fatto feste organizzate anche al di fuori della settimana d'agosto. Adesso per una serie di motivi la festa finale all'interno della vacanza è una festa aperta a tutte le donne del territorio, per cui poi si ha la possibilità di amplificare anche un po' le conoscenze, le certo. Di relazioni, anche perché la settimana, la vacanza in masseria, le ospiti sono fondamentalmente, a parte noi che organizziamo, non sono pugliesi, ecco, però c'è un giorno, c'è una giornata, una serata di questa settimana dove è possibile conoscere la fauna locale, che non siamo noi, che ormai ci conoscono, e quindi c'è la possibilità di conoscere altre donne, sì, certo. Perché c'è questa grande festa finale che quest'anno sarà il 14 agosto, dove dopo cena ci sarà un momento di spettacolo, poi ci sarà questa festa che insomma un po' richiama tutte le donne della provincia di Bari e non solo. E non solo. Sono sempre molto frequentate, sì. Sì, e dunque noi ci auguriamo che con tutte queste domande che ti abbiamo fatto siamo riuscite in qualche modo a stimolare la curiosità delle donne che ci stanno ascoltando, e per questo credo che sia opportuno che tu ci ricordassi allora alcune informazioni utili. Per esempio hai detto che questa festa si farà il 14, ma il periodo in cui si svolge la vacanza per donne qual è? Oppure quali sono i recapiti, perché se qualcuna vi vuole contattare almeno insomma informazioni, ecco, rispetto al periodo, al modo per arrivarci, per contattarvi, per potersi prenotare, queste informazioni diciamo tecniche, la base per esatto, poter... esatto, per poter la venire base della promozione, esatto. Allora sì, allora la vacanza noi quest'anno sarà dal 6 al 16 agosto in Puglia presso la masseria Sant'Anna, che è una masseria che si trova tra Monopoli ed Alberobello. È raggiungibile allora la Puglia è raggiungibile, come ben sapete, in aereo, perché ci arriva, certo. E in treno, dopodiché la masseria è in campagna, per cui poi ci vuole un mezzo per arrivarci, diciamo che essere automunite per poter quantomeno girare insomma i nostri territori sarebbe preferibile, però per chi non ha la possibilità di venire in macchina, in mezzo o proprio. Di noleggiare la macchina, si raggiunge la stazione di Monopoli e noi poi con un servizio che viene offerto per le ospiti assolutamente gratuito, vi veniamo a prendere dalla stazione, vi portiamo in masseria e poi vi riportiamo, diciamo, in stazione al momento della partenza. Siete grandi. Sì. Ma lo facciamo con piacere, ovviamente, insomma, l'accoglienza, insomma, se non è questo, che cosa può essere? Certo. Per poter avere altre informazioni rispetto poi alla la logistica, i costi, a quant'altro, è possibile contattarci sul nostro sito, contattarci tramite email a info@masseriasant'anna.it oppure per telefono chiamando il numero 333-6416-863. Comunque, per tranquillità tua e delle ascoltatrici, ricordiamo che noi le trasmissioni le mettiamo, le carichiamo poi sul sito del CLR e ci saranno anche delle indicazioni con dei link che manderanno direttamente ai riferimenti che tu hai appena dato, per cui, insomma, possono, se non hanno avuto il tempo di prendere carta e penna e scrivere, possono andarla a vedere sul nostro sito. Sì. Qualche altra informazione, in masseria l'ospitalità è all'interno di camere triple o quadruple, c'è la possibilità per chi vuole avere invece una camera diciamo matrimoniale o singola, possiamo prenotare per voi, cioè per le ospiti, dei posti all'esterno della masseria a pochi chilometri, in maniera tale da poter, come dire, garantire questo tipo di esigenza. Oppure è anche possibile, ad un costo inferiore, poter soggiornare da noi in tenda, perché abbiamo uno spazio che abbiamo destinato alle tende, per cui sempre masseria, per cui anche in questa maniera è possibile insomma fare la vacanza da noi ad un costo anche più contenuto. Certo. E senti, adesso io devo fare una domanda che Rosina e Lucilla, che sono veterane della masseria, hanno voluto a tutti i costi che io ti facessi, quindi, come si dice, ambasciatrice non porta pena, per cui io te la faccio e te la leggo così come me l'hanno dettata, quindi io parlo in prima persona ma non sono io a farla, va bene? Allora, per esperienza diretta sappiamo che c'è un'atmosfera magnifica in masseria. Sì. E volevo sapere da te qual è il tempo medio di rimorchio, ecco. Certo che potevo aspettarmi una domanda del genere soltanto da loro due. Esatto, capiscimi a me, come si dice a Roma. Allora, io rispondo, diciamo, la mia risposta è soprattutto a Lucilla e Rosina. Dipende, il tempo dipende dalla capacità di intraprendenza, insomma. Certo. Io, diciamo, nella mia lunga esperienza di masseria ho visto, come dire, il rimorchio che si è realizzato nell'arco di 12 ore, così come nell'arco dell'intera settimana. Poi dipende tutto, insomma, dalla tua intraprendenza, capacità relazionali, dalla simpatia, dalla fortuna anche. Esatto. Però sicuramente, ecco, quello è un tipo di situazioni, un tipo di situazione dove per tanti motivi e anche per la facilità con la quale noi cerchiamo di facilitare proprio l'interazione con le donne, cioè non è che è facile rimorchiare, ecco. Cioè l'addente sono nati, cioè, però no, devo dire che all'interno della masseria si sono formate tante coppie durature. Ottimo, allora diciamo che possiamo consolarci così. C'è questa eventualità abbastanza fattibile, poi chi riesce a cogliere l'attimo fuggente, ben venga. Diciamo che l'ambiente lo favorisce, va bene? Ok. Sì, senti, un'ultima domanda, poi ti liberiamo, perché il nostro tempo, oddio, guarda l'orologio adesso, sta per finire anche il nostro tempo e ti abbiamo rubato molto del tuo, quindi cerchiamo di concludere. Allora, per far capire ancora meglio chi siete e cosa fate voi della masseria Sant'Anna, ci vuoi parlare anche degli altri eventi che in un certo periodo dell'anno, verso la fine, se non vado errato, lo fate e lo fate in trasferta? Ci vuoi parlare un attimino, magari per quelle donne che magari interessate alla vacanza estiva ma non riescono a prenotarsi, non hanno già fatto la loro vacanza, hanno comunque possibilità di incontrarvi, conoscervi e godere della vostra ospitalità? Ce ne vuoi parlare? E della nostra grande simpatia. Assolutamente sì. Sì, noi sono 3 anni che abbiamo deciso di esportare il progetto Masseria Sant'Anna. Mm-hmm. E organizziamo il Capodanno, il periodo di Capodanno, l'ultimo dell'anno, lo organizziamo sempre, facciamo 3-4 giorni di vacanza sempre rivolte alle donne, ma non più, non da noi, ma in Puglia, ma lo facciamo, diciamo, in una zona più centrale, per un po' dare la possibilità a tutte di poterci raggiungere anche per qualche giorno. Certo. Ma anche perché anche per noi diventa un motivo anche per poter andare finalmente in vacanza da un'altra parte. Mi sembra legittimo. E quindi cambiamo, come si dice adesso, location, e quindi esportiamo e emigriamo nella zona di Fano. Uh-huh. C'è un agriturismo che sono già 2 anni che organizziamo lì il Capodanno, e questa è per chi non può raggiungerci quest'estate in Puglia, potrebbe essere un'ottima occasione per poterci conoscere ed eventualmente valutare di poter venire l'anno successivo da noi a vederci. Certo. In azione nella nostra terra calda pugliese, insomma. Sì, c'è, cioè, questa devo dire l'abbiamo iniziato 3 anni fa, un po' per gioco, ma anche un po' veramente per cambiare un po' posto, un po' aria. Mm-hmm, così. Certo. Ma è risultata una bellissima, interessante esperienza anche quella, per cui noi volentieri sicuramente anche quest'anno sì, la riproporremo, probabilmente nello stesso posto, perché abbiamo trovato un posto molto ospitale, bello, dove si sta bene, però sempre con questa idea, appunto, di avere una situazione a metà strada dove poterci incontrare e quindi poter come dire, timbrare il castellino a metà anno, in un ospedale, fare il richiamo, come si dice. Il richiamo. Ascolta, siccome l'unico mezzo più istantaneo è una mail, ti va di ricordare almeno soltanto la mail? Poi tutti gli altri riferimenti li mettiamo noi sul sito e caricheremo proprio i link, però almeno la mail in questo momento, secondo me, sarebbe carino che tu la ripetessi. Sì, va bene. Allora, info@masseriasant'anna.it. Ok, va bene. D'accordo, io ti ringrazio della partecipazione, dell'intervista, e ci diamo appuntamento o per Capodanno, per reclamizzare il vostro Capodanno, sì, e poi sicuramente l'anno prossimo, perché la vacanza in masseria è mitica. Guarda, un lapsus e va sicuramente mandata in onda assolutamente tutti gli anni fino alla fine. D'accordo. Fino alla fine dei nostri giorni, così. Un abbraccio, Pina, grazie di essere stata con noi. Ciao. Allora, noi adesso ascoltiamo un altro brano, si tratta di Sharon Van Etten e si intitola I Know. See me turn around and try. upon my ears so I can shut it out. I see you listen to my body and say, I know, I know. I know it's hard to find out what I'm not. I know, I know. And here we are apart, but here together are our hearts and now beat for each other. Ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci: in radio fino alle 22 allo 06 49 17 50 con un'email a contatti@clrbp.it, visitando la nostra pagina Facebook clr.roma. Il nostro sito www.clrbp.it e, per finire, con una lettera a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Allora, per concludere, vi leggiamo una lettera che è arrivata nella nostra posta, nella quale si dà l'annuncio della prossima edizione del campo politico Donne di Agape. Care tutte, la staff del campo Donne, Elena Alberti, Elisa Coco, Daniela Ghiotto, Merlene Hoffman, Antonella Petricone e Margherita Zacchi, comunica che sono aperte le iscrizioni al campo politico che si terrà dal 23 al 30 luglio presso il Centro Ecumenico di Agape Prali, Torino. Mappe femministe, reti, percorsi e pratiche, intersezioni di lotte in epoca postcoloniale. Transazionali, postcoloniali, intersezionali, queer, da decenni nuovi, altri femminismi in tutto il mondo connettono genere, razza, etnia, classe, sessualità, generazione, promuovendo la pratica politica del posizionamento. In questo presente di fortezza Europa, stragi di migranti, razzismo e islamofobia, distruzione del welfare, neoliberismo imperante, violenza di genere, crociate contro l'ideologia del gender, i femminismi ci forniscono strumenti di pensiero, immaginario e pratica per resistere e lottare. Vi diamo alcune info per contattare il centro Agape. Dovrebbero stare sotto, Stefano. Un attimo solo che cerchiamo i fogli. Siamo un po' disorganizzate questa sera, ci dovete scusare, ma l'emozione di parlare con la masseria, vorremmo già stare lì tutte e due. Allora, la mail campodonneagape@gmail.com. Il sito http://agapecentroecumenico.org/. ufficio@agapecentroecumenico.org, il telefono agape